Siamo tornati. Non è tutto. Sembrava finita. Sembrava finita invece. E invece no, siamo tornati immediatamente, neanche il tempo di andare a pisciare, perché è giunto il secondo gruppo che suonerà questa sera qui al Boo Queer Festival, volume 2, parte 2. Parte 2. Gli speriamo molte. Esatto, direttamente da Cagliari. Da Cagliari, da quell'isola sperduta nel Mediterraneo. Esatto. Beh, il Mediterraneo, giusto? Sì, non è. Pare sì che sia nel Mediterraneo per ora, poi. Poi la deriva dei continenti, insomma. E abbiamo i Row. Prima volta a Genova, tra l'altro. Primissima volta a Genova. E forse anche in Liguria. Gruppo. Forse addirittura in Liguria anche. Liguria, siete mai stati? Capito, è un vostro biografo. Come gruppo, assolutamente la prima volta, sì. Ah, quindi, prima volta a Ligure, non solo. Genovese. Ne venivate, ma hai detto te GP nello specifico oggi da Milano. Ieri avete suonato a Milano oppure? No, domani. No, okay. Domani suoneremo a Milano. Quindi direttamente oggi. Dal traghetto qui. Direttamente dal traghetto, siamo arrivati a Bergamo. No, che cazzo traghetto? Una cazzo di fottuta agonia. Sì, nel senso, perché noi siamo pure degli stronzi. Abbiamo deciso di fare le prove a mezzanotte. Ma è giusto. Una scelta intelligente. Una scelta intelligentissima. Poi un po' di casini, siamo andati a dormire tipo alle 2. Svegli alle 5, comodi, comodissimi. Ryanair alle 7, meraviglioso. Quindi siamo qui freschissimi. Qualcuno che dimentica le chiavi chiuse dentro la saletta. Quindi, fortunatamente siamo stati i guerrieri del jet lag. Sì, i guerrieri del jet lag. Assolutamente. E suppongo, GP, vorrei subito fare la domanda di rito di voler sapere un po' di bio. Beh, sì, vabbè, facciamo l'introduzione, la domanda dalla quale non ci scappa mai. Purtroppo no, tocca sempre. Chi sono i Ro? Allora, chi sono? Chi o cosa? Sì, no, allora, i Ro, diciamo, sono nati, diciamo così, nel 2000, fine 2009, da un'idea mia di Cioppa, che è la chitarrista che oggi non c'è perché aveva impegni di lavoro. Insomma, la prima formazione era con tutt'altre persone che ci sono adesso, a parte Cioppa. Abbiamo avuto varie vicissitudini, cancri, galere, cose varie. Quindi nel frattempo ci sono state forse 4 cambi di formazione, più o meno, 5, forse 5 cambi di formazione. Niente, poi adesso quindi è tornata a Cioppa. Oggi non ci saranno i due chitarristi, Cioppa non è potuto venire e neanche Roberto manca di me. C'è una part time, lei, no? Sì. Perché Roberto manca fuori. Diciamo che Cioppa non te ne avere male, fai un po' come cazzo ti pare. Sì, esatto. Ma soprattutto l'altro chitarrista, Roberto manca di merda. Perché Cioppa ha obiettivi, problemi di lavoro, non poteva venire. Roberto Manca non aveva problemi di lavoro, ma aveva scuse inventate all'ultimo momento. Noi avevamo anche un video che stavamo girando l'altro giorno, quando era due giorni, domenica scorsa, e ha inventato un mal di schiena che poi è stato Roby, lo sappiamo che sei uscito, è stato smascherato perché è stato visto in giro. Beh, il regime di campo, cioè, però qui si usa il mezzo per un po' il pot della Sardegna. Con risultati Prego. Visibili, grazie. Sì, prego, e intendevo il posacenere. L'intervista non sarà un'intervista a Roma, sarà un'invettiva nei confronti di Roberto Manca di merda. No, vabbè, ma però stai calcando la mano. Guarda, noi siamo qui. Ma mi sa che non è tipo da tenere dietro. No, sì, però. Poi fai un uso privatistico del mezzo. Sì, però questo è anche un servizio pubblico. E quindi se c'è... Appunto che non deve essere utilizzato. Un disservizio pubblico. Per cose private. Bene. Abbiamo iniziato subito col botto. La marcia giusta. Sì. Sono veramente contento di questo inizio. E vi chiedo, o meglio, ma cominci tu? Un pezzo. Scegliere un pezzo che non sia dell'ultimissimo disco, perché non l'ho trovato da nessuna parte ancora. Spero di poterlo acquistare oggi. Ho lo split, ho Armageddon e lo split con i Mucopus. Quindi. Ok. Cioè, e dopo ce ne sono stati altri due. Esatto. Allora, però non non ho trovato Satanist Whose quindi... Intentions Are Good. Sì. E l'ultimo, è il 4-way split. L'MP3 non li ho trovati. Ah. Strano. Ah, stranissimo. Forse l'ho caricato un giorno che ero un po'. Meglio non sapere. Cioè, non l'hai caricato. E quindi, quantomeno, siamo stati utili a notificarvi che c'è questa mancanza. Da. Mettiamoci un bel In God We Trust, Cambo. Cosa ne pensi? Sì, assolutamente. Dai, meraviglioso, un grande classico. Eccolo qua. Sanremo 2012. Le nuove, le nuove proposte. Secondo classificato nelle nuove proposte. Chi è che è arrivato primo? Guarda, vamo te lo nostro. Dico perché. Rieccoci sulle liberissime frequenze di Radiogramma con il crossover sia delle isole, delle penisole che dei programmi radio di EY. Abbiamo qua il Row di Cagliari e io, dopo In God We Trust e For Kids We Lust, la domanda che ho da fare è, io vi ho visto dal vivo una sola volta quando abbiamo suonato vicino a Udine. Mi ricordavo che sono rimasto abbastanza scioccato, comunque impressionato dal fatto che quando suonavate voi c'era proprio un autentico senso di pericolo che spesso si trova. Sì, vi ricordo, cioè, suonare nel sangue di Cambo subito dopo Cambo, non so perché, insomma. Niente, ero rimasto molto impressionato sia dall'impatto che anche dai discorsi tra un pezzo e l'altro, comunque tutto il modo di porsi, e volevo chiedere quanto è importante l'utilizzo della provocazione o comunque come modo di esprimervi, cioè un modo di esprimersi così, diciamo, improntato alla provocazione. Sì. Che uso ne fate e quanto è importante in quello che i Row esprimono? Allora, cioè per me, che poi secondo me dovrebbe essere un po' anche quello, sto incasinando qui congiuntivi e condizionali, dovrebbe essere un po', insomma, anche lo spirito del punk, quello di, durante un'esibizione o durante un concerto con la musica, fare un po' quello che veramente ti senti senza seguire schemi prestabiliti, quindi... quello che mi piace provocare durante un concerto o fare io stesso è far sì che le persone che sono al concerto, le persone che suonano con me, facciano in quel momento quello che si sentono senza liberandosi da ogni schema imposto anche dal punk stesso. Cioè, bisogna pogare in un certo modo, bisogna fare quel rituale di gesti, quel ballo, i cori in quel determinato momento. Cioè, per me, quando si suona, bisogna liberarsi completamente da ogni cosa e proprio sviscerare tutto quello che sia dentro, senza schemi, senza pudore, senza paura, senza niente. Quindi un po' lo spirito è questo. Poi non c'è una vera e propria volontà di provocare, probabilmente è una ricerca anche mia di liberazione completa nel momento in cui suono, voglio essere libero di esprimere tutto me stesso, insomma, una cosa del genere. Poi per la cosa in particolare del sangue che dicevi prima, quella sì, è vero che molto spesso tendo a, insomma, a sfregiarmi e cose di questo tipo qui. La volta in particolare ho fatto uno stage, mi sono infilzato con un gancio che c'era in un palo, tanto è vero che mi sono squartato la gamba, però quello non era voluto, quello è stato un incidente del percorso. Figo, perché figo, cioè alla fine... Alla fine si racconta, quindi... Una volta si moriva di... si moriva di tetano e altre infezioni, adesso... Grazie all'invenzione della penicillina lo si può fare anche per puro divertimento. Troppo facile. Una volta, se l'avessi fatto, sarebbe stato ancora più punk, perché esatto. Cioè, poi qui rischio di morire. Invece così. No, te la sei sfangata. Non volevamo sminuire. Esatto. Però anzi... No, lungi da me. No, esatto. Sì, ma, però effettivamente con i moderni ritrovati... Cioè lo fai anche, ti liberi e lo fai anche con una certa tranquillità, che mal che vada. Sì, sì, nel 99% dei casi. Sono giunto alla conclusione che tanto io, per quanto mi impegni così, tanto non muoio. Veramente... Ha portato il cibo e ringraziamo in diretta per il cibo. Al volo. Nel frattempo siamo... direi, cioè, cominciando a parlare di sì, come al ruota solito, libera. Come al solito. No, e... cosa, se devo star zitto. No, devo vai. No. E niente, sì. Andiamo... Vuoi aggiungere qualcosa? No, si dicevo che volevo esporre questo mio, penso a questo punto, superpotere mutante, così che non muoio, un po' come la cheerleader di Heroes, sì. Cioè, ha tirato fuori una chicca proprio. Non se lo ricorda quasi nessuno, tra l'altro. Io sì, ho tutti i DVD perché sono un ultra fan. No, ero un attimo distratto dal cibo. Puoi ripetere? Cheerleader dei Heroes. La cheerleader dei Heroes. Sì, due serie poi cancellato. Male hanno fatto. Esattamente. Male hanno fatto. Sì, guarda, ne passo l'ultima. E nel mentre vi chiediamo un altro pezzo. Ti passo la pasta e ti chiedo anche un altro pezzo. Così diretta. Che pezzo vuoi mettere? Considerando che non c'hai gli album. Considera che c'hai molto meno scelta di quello che vorresti. Smirioni. Dai, adesso, come sempre, attiviamo VLC. Perché non mi ricordo che disco è. Esatto, però c'è i nomi lunghi, abbiamo dovuto allargare la finestra. Che il locale dove sono... Il locale, sì. Il quartiere dove sono cresciuto. E ci sono dei problemi tecnici. Buona, è buona almeno la pasta. È buona almeno. È buona. Poi ci cadi con la faccia dentro. Esatto. Non ho accolto di riferimento, cioè... Sì, ammazzi. Esatto, esattamente. Niente, continuiamo ad avere problemi tecnici. Ne devi scegliere un altro o lo trovi? Altro. Esatto. Nel frattempo c'è la bocca piena e non puoi dirlo. Tutto ciò sta diventando imbarazzante, ovviamente. C'è un... Ah, no. Meno male. No, me l'ho spinto con il mucopus. Ci avevano indicato male. E adesso andiamo a prendere e metteremo un pezzo per sbaglio dei mucopus, sicuramente. Facciamo un attimo un pezzo di mucopus. Ma no, metti un pezzo loro e via, cioè. Quella volta che al tributo a Joe Strummer ti avevo detto suonate Babylon's Burning, non l'hai voluto fare, vuoi fare sta roba qua. Va bene, Illusions of Choice. Dai. No, mi fa schifo. No, perché mi fa schifo? Ormai è troppo tardi. Va bene. È andata? No, non è andata. Meglio così. Cause of less life. laboratory environment with the guns and the strings, the best I hear from side to side. And his love went down by dogs of concrete. Don't even try to harm a single rodent. Watch out, views, come back, but scout. I'll focus on you in a single moment. Me is what you have to worry about. Esatto, è arrivata la pasta, c'è chi non l'ha voluta e io ne ho goduto assai di sta cosa. Ottima pasta ragù vegan, stupendo, grazie alla cucina. Esatto, sì, non è stata rifiutata per scarsità di qualità del prodotto, no, ma proprio perché non ci stanno dentro a mangiarla. Sì, ma poi soprattutto preferiamo bere, così almeno ci sbronziamo prima. Se abbiamo troppo cibo in corpo, viene solo sonnolenza. Asciuga troppo. Possiamo risuonare bene. Bene, e dopo aver messo un pezzo che non era né quello richiesto, né quello scelto in seconda battuta, né probabilmente un pezzo dei Raw. Che più o meno il programma della scaletta dei Raw, sia mettiamo una scaletta e poi ognuno... Suona quel cazzo che vuole. E, là, e invece vi volevo fare una domanda, ovviamente. La libertà totale è un grandissimo accollo, in sostanza. Il piacere del citazionismo. Nelle vostre canzoni c'è molta citazione ai classici e meno classici del punk, dell'hardcore. Ma non solo, c'è anche gli Stooges, piuttosto che i Rolling Stones, piuttosto che... E volevo dire, non è mai in maniera scontata, almeno per me, per come li ho sentiti, non avviene mai in maniera né scontata né sgraziata, nel senso che ti viene sì, vabbè, stai citando. E quindi come avviene che cioè, quel pezzo lì iconico di magari una canzone, di un titolo, lo prendete e lo infilate dentro la canzone? Hai visto che anch'io so fare le domande tecniche? Domanda difficilissima. Ma tanto non ti ascolto mai. Esatto. No, vabbè, noi ci piacciamo tutti col cazzeggio, poi in realtà facciamo il nome. E ne prendo con No, vabbè, è abbastanza io naturale, nel senso che... Più o meno anche l'idea di fare un testo, eccetera, nasce sempre un po' da quello... Normalmente i testi li faccio dopo che il pezzo è già più o meno costruito musicalmente. Quindi... secondo quello che il pezzo mi richiama, ovviamente ci attingo sempre un po' da esperienze precedenti, quindi di sia musicali che cinematografiche, che fumetti, eccetera. Quindi quello che in quel momento mi suscita quell'amalgama sonoro, insomma, prendo un pochettino quel filone là. Cioè, tutto dipende da un po' da cosa mi suscita quello che sento come musica. Il fatto che ci siano citazioni è condizione cioè indotta dal fatto che le emozioni e le cose che mi suscita sono per forza attinte da qualcosa che esiste già, cioè, appunto o a livello cinematografico, musicale, fumetti, eccetera. E basta. Bello inserito bene, che ci sia siano delle citazioni proprio totalmente esplicite, neanche celate, e non risultino diciamo sgradevoli, sì. Perché poi no, ma perché lì nel momento in cui attingi, secondo me è anche corretto anche insomma far sì che sia chiara lo spunto, da chi hai preso lo spunto per poi dire quelle cose. Però è un equilibrio sottile tra l'essere così esplicito da essere scontato e farlo troppo velato, che lo capiscono in tre. Cioè, secondo me è una cosa, cioè non è una banalità, sì. Farlo bene. Sì, sono una persona equilibrata praticamente. Cazzata. Non ci direbbe assolutamente. In qualcosa dovrà bene essere equilibrato, esatto. Dai. Ying e yang. Si parla mangiando, quindi spesso sentirete del ruminare, che potrebbe essere assai poco professionale. Vabbè. Esatto, così. Quindi tu non avevi una domanda. Io ce l'ho una domanda, ma sentiamo un pezzo, dai, o faccio la domanda? Un pezzo, no, ditemi voi. Perché vedo che lui armeggia, ma un pezzo non so. E allora vai la domanda. Vai di domanda. Vado della domanda. Dato che... La 3. Come no, avrete... La busta 3. Dato che, come si noterà, sono un po' più vecchio di loro. Sei sicuro? Te lo giuro. No, ma non si vede, perché mi mantengo benissimo, ma... vengo da una realtà dove tra il punk e il metal c'era una divisione, un muro invalicabile. Questo, diciamo, forse Sinai di Arai. Sì, verissimo. La butto lì. E dato che vedo che voi avete un immaginario... E anche, diciamo, esplicitamente nel vedervi, nel look, che poi è importante anche quello, perché poi tutto fa in quello che suoni e anche come ti mostri. Sono d'accordo, sì. E niente, volevo dirvi, appunto, come considerate questa cosa e, appunto, da dove, tra virgolette, ne venite e quanto vi abbia influenzato una scuola e l'altra e come riuscite a mixare le due cose. Sì. Allora, faccio una... Premetto che io da adolescente era proprio un metallaro sfegatato, cioè proprio si vede, sì. non dei capelli. Beh, dei Venom, i capelli erano, io ho i capelli in apposta. Sì, cioè da diciamo dai 14 ai 18 anni più o meno era proprio il classico cliché del metallaro, capelli lunghi, topper i Venom. Cioè a scuola, che cioè mi ricordo che la professoressa diceva: che bellino Camboni, sembra fa tanto il cattivo, ma è pieno di cerbiatti. No, professoressa, è Satana. Cose di questo tipo. Satana che resta di nuovo alla roccia da ribalta di gran moda, Satana. Un kill ben visto. Però anche nel metal, diciamo che secondo me ero già improntato un po' al punk, nel senso che ho sempre... teso verso le cose un po' più estreme, un po' più provocatorie che riuscivo a trovare. Quindi avevo cominciato con gli Iron Maiden, poi avevo scoperto i Venom. Cioè, mi ricordo che H&M ne parlava malissimo, io ancora non li conoscevo, ho detto questi mi piacciono. poi li ho sentiti ed effettivamente mi sono piaciuti moltissimo. Se posso anche io gettare giusto due parole, sì, al vento. Cioè, secondo me c'è da dire che c'è metal e metal. Perché adesso io suono ormai il basso con Cambo da un po' di tempo, visto che il bassista reale dei Raw ha un lavoro vero, una famiglia, insomma, è una persona sensata. Okay. Abbiamo qui il sostituto. Infatti, quando abbiamo visto c'era Emiliano. C'era il ragazzo degli Afora d'Arrasto, che anche lui non lo vedeva. È vero. C'avevo qui l'altro chitarrista, che era un altro capellone zozzo. Cioè, nel senso, quindi c'è da dire, secondo me c'è metal e metal. Perché c'è il metal dei rompicoglioni, tutti scimmiati di tecnicismi, che ci rompe il cazzo a tutti quanti, e poi c'è invece quello spontaneo che prende l'attitudine del punk hardcore, gli stessi valori del punk hardcore, e quindi gli piace suonare dritto, veloce, e quindi secondo me quella è l'unica grande famiglia. Non ci dovrebbe essere tutta questa grossa divisione razziale che spesso si vede. Oh, poi per carità, è pieno di metallari testa di cazzo che... No, diciamo che come... Che mi pigliano al cazzo pure a me, quindi ci sta... Buttandola, non so poi tu che età hai... Però questo, cioè io ricordo che... Mento sempre sull'età, come... Che, esatto, ma anch'io. Allora, vi dico solo questo. Abbiamo fatto fare il calcolo dell'età media dei Disco Mostro. Non ci hanno voluto dire, ma l'età media, e loro sono 30. Secondo me loro un po' un filo più alta. Okay. No, dicevo che appunto c'era questa barriera una volta, che era una barriera invalicabile. Poi a un certo punto, cioè ad esempio, un altro gruppo che mi viene in mente, dato che abbiamo citato i Venom, che secondo me i Celtic Frost erano un altro gruppo che andava oltre. Perché avevano questa immagine già molto sgraziata. Sì. Io li adoro a misura. Comunque, ragionami al discorso, devo anche dire che noi a Cagliari abbiamo vissuto in una realtà dove alla fine, non essendo moltissimi, ci siamo sempre trovati, specialmente nei decenni passati, a condividere un po' tutti i concerti, cioè c'era un concerto all'anno se andava bene, quindi alla fine a quel concerto ti trovavi metallari, punk, gotici, ti trovavi tutti. Quindi magari rispetto ad altre realtà noi abbiamo sempre vissuto un po' questa forma di aggregazione, cioè tutti facevamo più o meno le stesse cose, frequentavamo gli stessi posti, eccetera. Tanto è vero che io quando ero appunto piccolo e metallaro, frequentavo Psychobilly e cose del genere, che mi prendevano per il culo, mi chiamavano Latina di Ferro, però mi avevano preso un po' come mascotte. Anche perché una volta effettivamente c'era sta cosa, appunto io sono cresciuto con Supporta la Scena, e quindi vai a vedere il cantautore sfigato come il gruppo trashcore. Esattamente. A prescindere, poi magari una cosa ti faceva cagare, ma tu andavi lì e comunque frequentavi delle persone. Sì. Poi magari te ne stavi al bar a bere perché ti fregava un cazzo di quelli che suonavano, però sì, che non venivate dai Dream Theater o dai Manowar, si capì. Ho estremizzato il concetto. E neanche Calzante, i Tool. Neanche i Tool, no. Neanche, neanche i Tool. Neanche, neanche. Niente, lo sentiamo sto pezzo o devo continuare a dire delle troiate? Ditemelo voi, perché se no volete continuare tutta la notte. Scegli te, dai. No, ho detto di no. No, me ne mangio ancora pasta. Mangio ancora della pasta. Vai. Mangia. Tanto l'ho masticata e ci ho sputacchiato dentro. Fantastico, come piace a me. Tutto detto in diretta. Vai, fammi sto pezzo. Dai, mettine una. Tanto vedi, non c'hai un disco. Cioè, allora, c'hai tre pezzi in croce. Allora, o metti uno che hai deciso te, o lo facciamo vediamo scegliere da loro. Scusi, perché sono curiosità di dove cazzo era. Cioè, probabilmente Split Queen Nose. Allora. Smirrioni. Ci date una mano voi trash. Metto un pezzo da Armit Gaddon. Non è Killer. Visto che abbiamo parlato di metal, metterei Dumbass. Vai, via. Dumbass. Ci voleva tanto. Ecco qua. Non dire che non l'hai trovato neanche questo. Dai. Questo sì. Se no, cioè, sei licenziato o seduta sta. Ma questo è il biografo ufficiale, pare che non è un vuoto orto, mi si chiude la vena. No, cioè, basta. Guarda che ti fa male. So. Ti fa male. Poi stai parlando bene di gruppi metal, che non ti sentivo di un contesto dove lo dicevi da anni, praticamente. E quindi proprio... Beh, i gruppi metal, abbiamo parlato di Celtic Frost e di voi. Sì, per carità. Cioè, in mano ora gli Halloween mi fanno cagare. Ma sì, perché, cioè, no, gruppi come voi... Comunque, invece volevo fare una domanda io, perché è una domanda di rito, anche questa, specifica, però comunque va fatta, perché è talmente raro poterla fare questa domanda che viene da fare. Che stiamo facendo la ora per sentirla. No, perché quanto è una difficoltà essere un gruppo sardo e voler andare a suonare in giro? Guarda, ti dico subito che la difficoltà maggiore insormontabile sono appunto i costi, nel senso che viaggiare dalla Sardegna ha costi che per la maggior parte delle volte sono improponibili per determinati contesti. Cioè solo il fatto di dover prendere l'aereo, la nave che costa ancora di più dell'aereo, quindi ci rende molto più difficile poter suonare rispetto, immagino, a qualsiasi altro gruppo della penisola o comunque europeo. Che condividete tra l'altro con tanti, cioè io mi ricordo che sono un grande fan di tutta la scena sarda. Cioè, a fuori d'arrasto, i Kekem, i Mister Murungio. E mi ricordo sempre che li ho visti tutti pochissime volte, perché è un evento ogni volta che viene un gruppo sardo. South Sardinian Scam. Abbiamo visto che non è tanto. No, ma infatti noi facciamo i parassiti, non veniamo con un cazzo, se zero strumenti, dobbiamo prestare tutto squallidissimo. È vero, puoi dire, devo prendere l'aereo, che poi c'è anche il rovescio della medaglia, nel senso che costa anche tantissimo portare i gruppi in Sardegna. È vero che ogni volta che dobbiamo organizzare Però vedo che ci cose ne fate cioè alla fine, appunto, insomma, non avendo la possibilità di vedere tanti concerti, cerchiamo per quanto è possibile di unire un po' le forze per portare anche i gruppi da noi. La maggior parte delle volte c'è abbastanza riscontro, per cui si riesce anche a tornare un po' nelle spese per i rimborsi dei gruppi. Certo, arrivare al famoso pareggio di bilancio. Esatto. C'è anche, se vedi meno cose, forse c'è anche più entusiasmo. No, non so. Sì, se uno ha una sovrapposizione di offerta, quasi dopo un po'. Ma infatti io questa cosa qui l'ho vista anche come evoluzione negli anni, tant'è vero che prima di Ryanair e EasyJet era letteralmente impossibile, esatto. sia andare fuori era proprio un evento che potevi fare due o tre volte l'anno, perché aveva costi impossibili. È lo stesso portare gruppi in Sardegna, cioè portare gruppi di DIY così, era, non avendo soldi noi da investire, era una cosa difficilissima, però di contro, appunto, prima che non c'era quasi niente, c'era anche una partecipazione ai concerti molto più grande, cioè, si organizzavano concerti in paesini sperduti dell'interno, ci andavano tutti a passaggi in macchina. Oggi ovviamente questa cosa, ma è naturale, non è che la contesto, cioè, oggi ovviamente c'è un po' una selezione, uno sceglie un po' dove andare, dove non andare. Questo è un po' il rovescio della medaglia. Certe volte c'è anche magari un ricambio generazionale, nel senso che... Sì, a Cagliari in particolare c'è stato, a mio avviso, non c'è stato proprio un grande ricambio generazionale. Capita specialmente proprio nel punk hardcore. Magari nel metal, sì, nel punk hardcore molto spesso ci prendiamo per culo da soli, perché andiamo a vedere i concerti e diciamo, ma che cazzo è un ospizio? Cioè, è comunque un po' ovunque. Pochi giovani disinteressati alla fine. Secondo me sì. Già ci so. Comunque Cagliari. Comunque molto più assassino. Abbiamo fatto lo speech CGB contrasto affluente, lui era la running gag, era due secoli in quattro. Ho svariati secoli in quasi. Poi c'è anche da dire che storicamente quello che è il mondo del rock and roll, è stato un po' cannibalizzato dall'hip hop, che comunque quelli più giovani vanno. Che visione truce! No, però infatti voi avete avuto un'idea a Commander Sky Riot che cita i Celtic Frost, uno dei pochi rapper che cita i Celtic Frost. Vedi che tu, però c'è da dire questo, che dagli anni fino agli 90 in poi c'è stata quell'urgenza di esprimere la ribellione o comunque il dissenso. Viene più ad essere incanalata verso gruppi rap o hip hop piuttosto che gruppi punk hardcore e via discorrendo. Ma poi in generale c'è molta meno attenzione non solo verso queste forme di musica, ma verso la musica suonata in genere. Sì, in genere. Sì, esatto, sì, c'è molto meno, basi. Molto meno anche piacere del rito collettivo di vedersi a così a un evento live che a volte vai per il piacere di vederla, di vedere la gente, cioè sì, non è sì, che poi te ne frega troppi di social network di, vabbè, qua stiamo entrando no, in ma no, culo. No, ma no, ma probabilmente sono anche proprio i tempi che cambiano e cambia tutto, Pantarei eccetera eccetera, non c'è neanche più la cosa di Sniffing Glue, cioè piglia questo accordo, piglia l'altro accordo, così non devi manco pigliare i due accordi, cioè esatto, metti sei, una sei base, a posto, cioè cazzo te ne frega, da una libreria dici delle cose via a caso. No, anzi, che poi non, cioè non è che questo è tranchant, che no, tutti quelli che fanno carità, i pop li canno delle troiate, per carità, non volevo dire questa no, cosa. Però c'è stata questa evoluzione sicuramente nelle nuove generazioni, che approcciare a uno strumento non è più una cosa così comune, perché comunque il computer in casa ce l'hanno tutti, anche può sembrare una cosa banale, ed è più facile dire mi metto lì, vedo se riesco a fare un beat, una base. È così anche per il supporto anche ai prodotti che uno registra o fa. Prima, adesso non voglio fare il vecchio che dice prima era meglio, perché secondo me non è vero che era meglio. Si stava però, meglio stava. Però, cioè, però è vero che magari viene a mancare un pochino anche il supporto verso quello che si crea, quindi fanzine, magari non te le caga nessuno, o dischi, vinili, cioè molto, molto spesso capita di vendere più magliette che dischi, più magliette che CD. Ma c'è il ciclo è, fai le magliette per fare i soldi, per fare i dischi. Sì, e poi c'è anche comunque e poi ti tieni i dischi. E poi tieni i dischi e devi fare altre magliette. Non li vuole neanche i parenti non ti comprano il disco. No, ma poi c'è tipo i franchi tiratori in Parlamento. Esatto, ma poi c'è anche il problema appunto che la produzione discografica comunque paradossalmente è aumentata a dismisura, perché rispetto agli anni 80, 90 nei nostri ambienti un disco lo puoi fare chiunque, dici? No, non è che lo fa chiunque, molto più però è più facile farlo, e ciò non significa per carità un detrimento della qualità, però l'offerta cioè diminuita la popolazione che ascolta certe cose, l'offerta comunque aumentata, e quindi quello non gioca a favore, è un paradosso, però è così. Gimpi ci sta guardando, come dire, cioè avete, la smettete di dire delle troiate. Ma massimi sistemi. No, per guardare. Max. Adesso va bene. Citiamo addirittura Marx. Vabbè, la prossima volta cito Evola, cosa vuoi dire? Dai, pezzo. Biografo. Bobo. Sto pensando Split con Mucopus o Armit Gad? Vai, split. Abbiamo una scelta limitata. Con Mucopus. Ismirrione, se voglio sentirla, dai. Non c'è. E se la facessimo tipo unplugged, che tu la canti così? Se c'è su YouTube, mettiamo la nuova. Anzi, a cappella, come quel pezzo dei No Means No su Virus C. Esatto. Tributo a Red Canis. Ma attenzione. Io mi ricordo qual era il pezzo. Ma attenzione. Quale? Già dal pezzo. Siamo noi, veramente. Questa è giusta. Eccola qua. E ce l'abbiamo su YouTube, grazie alla regia audio che provveduto. No, aspetta. Il browser ha cantato Vittoria troppo. Il browser non è abilitato. Ma sì, come lo fai? Fatta anche il browser. E fa bene. Giustamente. Perché c'è un problema con l'HTML5, ve lo stiamo proprio dicendo in diretta. Il vostro tecnico informatico è Ruby Mank. Pezzo di merda. E niente. Sai che me ne ero quasi dimenticato le invettive iniziali. Noi non ce ne dimentichiamo. No, visto. C'è una carogna particolare. Sì. Se no sarebbe qui. Niente. Lo rifiuta. E quindi. Come direbbe i Pink Floyd. Quindi vorrei. No, non fa un cazzo. Non si mette niente da YouTube. No. Purtroppo non si va. No, YouTube va, ma non è detto quel video. Ah, non va quel video. Vediamo. Allora, dai. Io tornerei su Armit Gad. George Det. Non fa. Mark Giuda, non sto sapendo un cazzo. No, si rifiuta. Armit Gad, possiamo mettere. Ok. Dai, quella ci abbiamo. Bel pezzo. Tanta roba. Dai, dai che ci va a fare. E siamo tornati per l'ultimo pezzo, perché qui GP, appunto Luma Pompilio della scena parkour italiana, è richiestissimo altrove e quindi dobbiamo chiudere qua, ma tanto eravamo comunque all'ultimo pezzo parlato, quindi non ci facciamo mancare niente. Cosa diciamo, come sempre l'ultimo pezzo parlato è per il gruppo Quello che volete dire. Roberto vaffanculo. Ma no, pezzo di merda. Di merda, è schifo. Cazzo, non dargli lo sto spazio. No. Libertà è una cosa. Libertà e partecipazione. E tradizione, lo sai che è tradizione, che è l'ultimo. Ma lo sapevi che lo usavano. Chi vogliono salutare. L'esplosività collettiva. Ma sì, ma infatti, no, cioè, non vedevano l'orto. È stato bellissimo a Roma l'ultima volta che abbiamo suonato, che ovviamente ha paccato, non è venuto, c'è stata un'invettiva generale anche di chi non lo conosceva. Roberto manca pezzo di merda, è stato bellissimo. Più di 200 persone in coro. Giocava a calcetto quella sera lì, secondo me, cioè, gli date anche un po' troppa importanza. Esatto, sì. Gli date un'importanza che forse non merita, con tutta buona parte. È come la bestemmia, qualcosa di... Sì, è liberatorio. Sì, è viscerale. Quindi non c'avete proprio un cazzo d'altro da dire, cioè soltanto invetti, dai. Io dirò kek. Io lol. Milf, cioè, cazzo ce ne frega. No, sì, va bene. Ma niente, allora, se questo è quanto, se... Se non hanno nient'altro da dire, l'ultimo pezzo, scegliamo un ultimo pezzo e vi salutiamo tutti. Esatto. Grazie mille. Ringraziamo Iro, ringraziamo la regia, ringraziamo GP e a te, come al solito, non ti ringrazio. Tanto chi cazzo sono. Grazie ragazzi, esatto. Fantastici. Grazie a voi. Andiamo alla cover di Rai. Ovviamente cover di Rai, dai. Io direi dato che anche quelli l'abbiamo citati.